Archimede, tra passato e futuro, di Maurizio Melis. Dalla caverna alla casa ecologica. Buonasera, benvenuti a tutti gli ascoltatori. Eccoci ad Archimede, terza puntata. Il titolo lo avete sentito, ciò che non sapete è che è rubato. Infatti, Dalla caverna alla casa ecologica è anche il titolo di un libro di Federico Butera, Edizioni Ambiente. Federico Butera in linea con noi. Buonasera, Butera. Buonasera. Professore di fisica tecnica ambientale presso il Politecnico di Milano, si occupa di energia, si occupa di sostenibilità ambientale, in particolare per quanto riguarda appunto gli edifici, direi da sempre. L'altro ospite di oggi è Gianni Scudo, architetto, precursore proprio della bioedilizia in Italia, e anche lui si occupa, credo almeno da 30 anni o giù di lì, di queste tematiche, anche cultore della storia dell'architettura. Buonasera anche a lei, Scudo. Buonasera. Allora, per iniziare la discussione di oggi, partiamo da qui. Padova. Ecco alcuni progetti di case che col piano Fanfani diventeranno realtà. Ma già alla Faltana tre ville sono sorte, di due appartamenti ciascuna, e il ministro è venuto ad inaugurarle. Ai lavoratori, a chi le abiterà, l'augurio di quest'Italia che termina di riparare le sue ferite. La legge sul piano settennale è entrata in vigore nello scorso aprile. Per il Natale del 50, Fanfani può già annunziare che non meno di 43.000 famiglie avranno un appartamento. Siamo nel 1949, appunto, il piano Fanfani con cui... Per cercare di iniziare a rimarginare le ferite della guerra, si comincia intanto a risolvere o a cercare di risolvere il problema di dare un tetto alle persone. Di lì a poco il miracolo economico, il boom demografico e anche il boom edilizio, che però in qualche modo è disordinato, è convulso e soprattutto, lo abbiamo scoperto di recente, è caratterizzato da una qualità energetica molto molto bassa, o almeno mediamente. Dunque, Scudo, lo chiedo a lei, che cosa è successo? Perché questa disattenzione totale nei confronti di questo aspetto? Devo dire che all'inizio della ricostruzione, soprattutto con il piano Fanfani, si attuano una serie di interventi di edilizia sociale che sono ancora ancorati per certi versi a delle realtà locali e delle tradizioni, la Martella in Basilicata, alcuni grandi interventi di Quaroni, eccetera, molto interessanti, che erano molto attenti alle risorse locali, ai materiali, eccetera, anche necessariamente si trattava di ricostruire in tempi relativamente brevi con quello che c'era a disposizione, case relativamente povere che quindi dovevano anche fare i conti con l'uso delle risorse, quindi ben orientate, con il sole, eccetera, perché le risorse energetiche erano realmente poche nell'immediato dopoguerra. Lei mi dice cosa è capitato dopo. Nei successivi piani di intervento di edilizia popolare, edilizia sociale e di edilizia, diciamo, di mercato, questo rapporto tra risorse locali e costruzioni e insediamenti si è totalmente spezzato. Possiamo dire che è una specie di standardizzazione prende il sopravvento. Sì, l'idea che si costruisce ovunque nello stesso modo, del motto famoso di Le Corbusier, un unico edificio per tutte le nazioni, questo ovviamente passa sopra qualsiasi discorso di rapporto con il locale. Ecco, tra l'altro questo è una, come dire, è un fenomeno che abbiamo visto proprio nella puntata precedente per quanto riguarda l'agricoltura, quando subentra la logica industriale con diciamo la meccanizzazione. Quindi ci sono questi punti di contatto molto interessanti. Scudo, ma è vero che, come dire, gli edifici precedenti, quelli appunto di memoria storica, in un certo senso lei me l'ha già detto, erano effettivamente migliori da un punto di vista energetico? Di gran lunga, da un punto di vista, diciamo, di prestazioni rispetto alle risorse locali, sole, vento, rapporti con il terreno, eccetera. Perché si presumeva che, non essendo le fonti energetiche rare, comunque il legno eccetera, si doveva minimizzarne l'uso. Non va tuttavia esaltata eccessivamente questi principi erano molto interessanti, infatti sono poi ritornati negli anni 80-90, va tuttavia sottolineato che il modo di vivere, cioè il modo di abitare, diciamo pre anni 60, era fortemente legato a delle condizioni di comfort molto limitate. Ottimo comfort in estate, indubbiamente, nei nostri climi, abbastanza freddo d'inverno. Certo, insomma. E la gente sopportava con i guanti, eccetera. Tuttavia c'era un principio che poi si è diffuso anche nell'architettura bioclimatica contemporanea, sì, che era quello di non climatizzare tutta la casa, ma di climatizzare un po' e poi climatizzare quello che serviva, che è un concetto molto moderno, cioè non si riscalda, non si raffredda, non si illumina tutto l'ambiente, ma solo la nicchia che si usa, e questo è un concetto molto interessante. E anche molto moderno, appunto. Butera, a proposito di queste abitudini che in qualche modo c'erano in passato, possiamo fare qualche esempio di tecnologie energetiche del passato? Ma indubbiamente sì, ci sono delle cose che funzionano sicuramente, che si stanno riprendendo, è quella dell'inerzia termica delle murature, dovuta allora più che altro alle esigenze strutturali, però che si combinava molto bene con il fatto di avere di ridurre anche la trasmissione del calore verso l'esterno. Ma ci sono due cose molto interessanti. Una è, per esempio, un uso che si è perso, è quello che in passato si usavano gli arazzi, i castelli, poi successivamente le stoffe, e poi diventò carta lavapalati, che non serviva nulla. Ma quando c'erano stoffe o arazzi servivano esclusivamente perché questo permetteva di non avere un rapporto diretto di scambio radiativo fra il muro freddissimo e la persona, per cui rendevano più confortevole l'ambiente pur lasciando invariata la temperatura in presenza di un camino o di una stufa. L'altro elemento importantissimo, l'altra tecnologia meglio ancora, è quella del pavimento radiante, che si usa oggi ma che in realtà è stato inventato dai romani e veniva usato regolarmente nelle terme. Archimede, tra passato e futuro. Bentornati in studio, siamo in compagnia di Federico Butera e Gianni Scudo. Parliamo di architettura, parliamo di casa, da dove viene e dove va. È il 1970 quando Joni Mitchell canta Big Yellow Taxi, una delle prime canzoni ambientaliste, ma avremmo potuto citare Il ragazzo della via Gluck del 66. Siamo agli inizi, insomma, di un primo nucleo del futuro movimento ambientalista, e insieme alle manifestazioni di costume e anche di protesta si comincia anche a studiare i problemi dal punto di vista tecnico, a cercare delle soluzioni, e questo vale anche per l'architettura. Scudo, se lei dovesse scegliere un evento per significare l'inizio della moderna architettura ecologica, magari la prima casa ecologica di moderna concezione, che cosa sceglierebbe? Ma io non sceglierei una casa, ma sceglierei gli interventi che sono stati fatti intorno alle case, ad esempio a Barcellona, in città del nord Europa, eccetera. Perché l'aspetto forse più importante dell'architettura ambientalmente orientata è proprio quella di non solo affrontare il problema della casa in sé, poi ne parleremo, ma di quello che sta intorno alla casa, cioè lo spazio pubblico, certo, lo spazio privato, che diventa uno dei grandi oggetti, diciamo, di interesse, perché il clima sta cambiando, le nostre strade, le nostre piazze diventano sempre più roventi, e siccome la cultura mediterranea è molto abituata a vivere fuori, ovviamente sono arrivati tutta una serie di interventi in questa direzione. Senta, dice le piazze diventano roventi, parliamo dell'effetto isole di calore o parliamo del cambiamento climatico? Non ho capito. Isole di calore associato a un riscaldamento climatico 0,7-0,8 e a un'incuria totale da parte degli amministratori, soprattutto in Italia e soprattutto a Milano, che quando intervengono nello spazio pubblico dal punto di vista del microclima intervengono casualmente, molto spesso peggiorando le condizioni preesistenti. Ecco, tra l'altro, isola di calore, mi sembra giusto comunque spiegare che cos'è, appunto quell'effetto di riscaldamento che subiscono le città, perché le città sono degli assorbitori perfetti di radiazione solare. Si hanno aumenti di temperatura rispetto alla campagna circostante che possono essere di 5, 6, 7 gradi, quindi come dire, molto molto consistenti. Insomma, le tecnologie vanno avanti. Oggi potremmo dire che le tecnologie ci sono, però ho la sensazione che la percezione sia ancora questa qui. Ascoltate. Basta, basta, basta! Ma cos'è, c'è Carmelo? Non mi riconosco più nell'edilizia contemporanea. Anche la forma c'ha un contenuto. Ma cosa dici? Non ti capisco. Guarda cosa abbiamo fatto, abbiamo costruito 6 finestre sul pavimento, pieno. Perché c'è la nuova teoria della luminaria che si infrange con un angolo solare? Dunque Butera, senta, proviamo a smentire questa idea che secondo me ancora un po' c'è della casa ecologica. Cioè uno dice vado a vivere lì, sì, consumo poca energia, ma poi chissà che strani oggetti troverò dentro. Oggi c'è la formula 1 della casa ecologica ed è probabilmente insomma, la casa passiva, progettata in modo tale da far sì che gli apporti naturali di energia siano sufficienti a garantire un certo tipo di comfort. Le chiedo, Butera, gli ingredienti fondamentali, ovviamente per grandi linee perché non avremmo tempo, per raggiungere questo obiettivo, cioè l'energia zero, insomma, mi riferisco proprio alle tecnologie che si mettono in campo. Ci faccia qualche esempio. Ma tecnologie, noi dobbiamo sempre necessariamente usare dei vetri che siano di buona qualità ma non straordinariamente performanti, dobbiamo avere una base di isolamento che è quello che è importante, dobbiamo avere delle tecnologie di produzione o di conversione di calore o di freddo che siano le più efficienti possibili. Mi sembra che per esempio lei sia come dire uno propugnatore dei cosiddetti light shelf, gli scaffali di luce, una cosa a cui si pensa abbastanza poco. Questo viene certamente molto utile, anzi può essere utile o essenziale, dipende in quale circostanza, non c'è una soluzione per ogni... Spieghiamo che cos'è però prima. Il light shelf è semplicemente un elemento, una mensola di luce, cioè mettendo una fascia vetrata quasi a contatto, al confine del soffitto, immediatamente dopo, lasciando un 60-70 cm, si mette una mensola che sta a metà dentro e a metà fuori. Questa mensola deve essere chiara, bianca se possibile. La luce da fuori, la luce solare o anche la luce del cielo, viene ridiffusa all'interno e in profondità, creando una condizione di illuminazione naturale molto migliore che raggiunge la parte più profonda della stanza, riducendo di conseguenza la necessità di accendere la luce. Ecco, mi sembra che un altro aspetto, per citarlo, poi passiamo all'argomento successivo, per esempio è una grande cura nella ventilazione. Noi siamo abituati a spalancare le finestre per cambiare l'aria, cosa che è anche importante per la salute nostra e dell'edificio. Invece ci vogliono lì in queste case vengono utilizzati dei sistemi che recuperano il calore dell'aria che viene buttata fuori, insomma è proprio una somma di accorgimenti che determina questi risultati per cui la casa non consuma praticamente. Ecco, però questa architettura diciamo avanzata ha un potenziale, lasciatemi dire, limitato, nel senso che c'è poco spazio perché si possa diffondere ulteriormente l'edilizia, bisogna fare i conti con quello che esiste e io partirei proprio da questi grandi condomini che sono diffusi per tutta Italia, estremamente inefficienti, con questi dobbiamo avere a che fare. Butera, che tipo di interventi si possono fare su questi edifici e a che cosa si può arrivare come efficienza? Guardi, se sono quelli di pessima qualità si può fare tantissimo, per cui certamente la cosa più semplice, come hanno fatto in Germania, in Svezia e altrove, è cominciare a mettere un isolamento, mettere il cappotto all'esterno, cambiare gli infissi, metterli di migliore qualità, migliori vetri, poca perdita, e cominciare a mettere degli impianti che appunto, come diceva lei prima, abbiano la capacità di recuperare l'aria di rinnovo che deve essere fatto, e un impianto di climatizzazione che sia non la caldaia che è in compatibile con la sostenibilità come concetto, ma bisognerà che sia una pompa di calore che invece è quella che funziona, oppure se ho più edifici e sto servendo più edifici può prendersi in considerazione l'idea di avere degli impianti centralizzati di cogenerazione, come si chiamano, cioè delle macchine a scala quartiere in questo caso, no? Praticamente. Esattamente, energia elettrica e calore, e a quel punto si fa un balzo in avanti. Ecco, combinando una riduzione forte della domanda di calore o di freddo con delle tecnologie molto avanzate si può abbattere tranquillamente del 70-80% quello che è il consumo attuale di un edificio di quelli brutti, di quelli messi molto male, certo. Ecco, quello che non è una cosa da poco. Assolutamente no, tra l'altro c'è anche, come dire, della ricerca in questa direzione, ci sono anche delle opportunità, diciamo, di business. Per esempio, all'Area Science Park di Trieste hanno progettato un cappotto attivo, quindi c'è una serpentina che trasporta acqua calda o fresca a seconda della stagione, fuori viene messo un cappotto termico isolante e viene scaldato e raffreddato tutto l'edificio. E funziona tanto meglio questo sistema quanto peggiori sono le pareti del condominio in questo caso. Scudo, l'altra categoria di patrimonio edilizio con la quale abbiamo a che fare invece è quello in qualche modo di interesse storico. Qui cosa si può fare? Si può intervenire? Si può migliorare energeticamente? Beh, qui ovviamente sull'interesse storico che è gran parte dei nostri centri. Infatti, 5.000 borghi sotto i 10.000 abitanti in Italia. Sotto i 10.000 in Italia, ma poi tutti i centri storici, certo, in espansione, diciamo, fino agli anni 30, perché non dimentichiamoci che molta edilizia che ha più di 50 anni è vincolata a tutte le edilizie razionaliste. Allora, in questo caso ritorna il discorso molto locale. Vanno fatti dei progetti di recupero che devono in qualche modo, al di là delle regole che dà il Ministero dei Beni Culturali, i vincoli del comune, eccetera, debbono comune in comune stabilire dove si può arrivare con l'intervento. Perché tanto per dire, un edificio a corte si, sì, può coprire. La copertura di una corte vetrata determina un microclima nella corte molto interessante d'inverno e può servire per potenziare la ventilazione in estate. Ah. E questo può essere fatto, ad esempio, alla fine dell'Ottocento, in grandissima parte dell'edilizia a corte, palazzi a Venezia, Ferrara, Bologna, è stata attuata questa tecnologia molto efficiente. Oggi noi potremmo fare molto di più, perché abbiamo automatismi, possibilità di aprire e chiudere in funzione, certo, dell'esterno, eccetera, in funzione di una regolazione tra utente che vive e una regolazione invece di tipo automatico che regola l'apertura della copertura della tratta della corte in funzione dell'esigenza di ogni singolo alloggio, indipendentemente dai piani, eccetera. Butera, mi pare che qualunque sia l'oggetto del nostro intervento, l'aspetto, la chiave, diciamo, di volta è la progettazione. Noi invece viviamo in un contesto nel quale si cerca di risparmiare sulla progettazione, o sbaglio? Esatto, si cerca di risparmiare sulla progettazione, specialmente nella prima fase della progettazione, che è quella in cui si prendono le decisioni più importanti, quelle che gestiscono poi l'80% alla fine dei consumi energetici. Quindi, perché bisogna fare un'analisi molto attenta e un'integrazione molto attenta tra l'architetto, l'impiantista, l'esperto energetico, lo strutturista e così via. Questo ormai è un concetto riconosciuto a livello teorico, quantomeno un po' da tutti quanti, però la pratica reale è che il committente in generale è abituato a spendere due soldi per la progettazione preliminare e tantissimo invece per quella esecutiva. E aggiungerei un altro aspetto, che in questo contesto di progettazione, tra l'altro, fatto nuovo è che noi non siamo abituati a considerare l'edificio come una cosa dinamica anche a livello di impianto e di involucro. Cioè, mi ricollego a quello che diceva il professor Scuso prima, la regolazione e il controllo. Cioè, noi oggi abbiamo un edificio intelligente, cioè la quantità di intelligenza e di capacità di agire e reagire, sensori e attuatori, che ci piaccia o no, l'edificio moderno deve avere e l'edificio antico può benissimo avere all'interno del suo impianto, quella parte nascosta, no? Quella è una quantità di energia e qualità dell'abitare straordinaria che si mette a disposizione e che è impalpabile. Però Butera, a proposito di dinamico e statico, mi sembra che ci sia un altro elemento importante, cioè il modo in cui anche gli stessi studi di architettura progettano spesso gli edifici è statico. Oggi invece ci sono gli strumenti per simulare il comportamento reale dell'edificio, ma non mi sembra che siano molto diffusi. No, non lo sono, perché occorrono delle competenze abbastanza avanzate per poterli gestire. Ci sono i modelli di simulazione ora per ora o minuto per minuto del comportamento termico dell'edificio, della risposta al comfort che ci sarà in quel determinato ambiente, del livello di illuminamento che c'è in quel preciso istante, in quel preciso punto, per cui noi possiamo andare a fare una indagine e esplorare tutti gli ambienti dell'edificio in qualsiasi momento virtualmente del giorno, certo, che vogliamo, e verifichiamo se le condizioni che stiamo cercando sono quelle che effettivamente si verificano, e quindi intervenire per ottimizzare. Quando dicevo nel preliminare, paradossalmente questa roba qui, questo tipo di analisi andrebbe fatta e va fatta nelle prime fasi, perché, certo, è lì che io decido, certo, se la finestra la metto da una parte o dall'altra. E aggiungo, se si fa questo, il costo di costruzione è assolutamente confrontabile con quello di un edificio colabrodo dal punto di vista energetico, perché la conoscenza si sostituisce alla materia. Certo, e poi non si consuma. In un caso in cui mi sono trovato a lavorare, una semplice analisi di questo tipo ha comportato che per ogni euro che ha speso il committente per fare le analisi energetiche e luminose, ne ha risparmiati 10 sui vetri e sulle finestre. Ecco, poi la conoscenza di Buono che non si consuma, se la mangio io la può mangiare anche lei, mentre col pane non funziona così. Grazie Butera, grazie Scudo. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci e buonasera. Grazie a tutti voi ascoltatori per essere stati con noi. Una nota prima di lasciarci: da settimana prossima e per tutto agosto Archimede andrà in onda anche il sabato mattina alle ore 9.